vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Deborah, mi raccomando, non mi sono dimenticato di te. Adesso riaprono i ristoranti. Vengo a prenderti un mezzogiorno con la mia Panda 30 e ti porto a mangiare la cassola dove tu sai. Ciao biondina! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Buongiorno Deborah. Buongiorno. Ti stavi allora, preparando? Tengo a precisare... No, non sono biondina, non vorrei deludere il nostro ascoltatore, nonché mio grande corteggiatore, ma temo di non poterlo accontentare per quello che riguarda la tintura dei capelli. Poi non so neanche se, dato il mio 1,80 m, riesco ad entrare nella Panda 30, ma insomma sono ben felice di tutte queste buone intenzioni del nostro amico che ci segue e che ci manda sempre questi messaggi così affettosi. Vuoi venire a cena con noi, Mauro? A mangiare cena, la cassuela? Allora, la cassuela, ci sei quasi, con sì, la pronuncia, ci sei quasi. La cassuela puoi mangiarla però a mezzogiorno, come giustamente invitava l'ascoltatore, perché è comunque, esatto, gialli, rossi, adesso vedremo poi che succede con i giorni durante le feste, però ancora, se non mi sto sbagliando, no, i ristoranti possono servire ma a mezzogiorno, poi alle 18 solo a sporto. Si potrebbe fare una cassuela da sporto, da purtavia, si potrebbe dire. Esatto, ma... rimanderei l'accettazione dell'invito a più avanti e naturalmente bisognerà anche capire nel portafoglio che cosa c'è. Ce lo possiamo permettere quest'anno tutti questi inviti per pranzi o cene possibili fuori porta? Non credo, perché qua la cassa integrazione ha messo a repentaglio la tredicesima. È proprio così, perché infatti abbiamo un'indagine del Servizio Lavoro Coesione Territorio della UIL che con il coordinamento del segretario confederale Ivana Veronese ha visto un po' com'è la situazione, lo stato di crisi del mercato del lavoro, e ha evidenziato che la tredicesima di quest'anno sarà più leggera per almeno 6,5 milioni di dipendenti del settore privato. Perché? Perché con la cassa integrazione a zero ore si riduce lo stipendio e non maturano neanche i cosiddetti ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Vedo lo sguardo di Andrea Roccabella questa mattina in regia farsi non più aguzzo, no mi sembra più preoccupato piuttosto che convinto. Dietro le lenti degli occhiali misteriosamente non appannate, nonostante egli vesta correttamente la mascherina, dietro le lenti degli occhiali vedo uno sguardo un po' corrucciato, per dir così. Sorride, ma mi pare un sorriso amaro. Comunque quello è proprio... Vabbè, ma lui la cassa integrazione non l'ha fatta, quindi diciamo che la sua tredicesima dovrebbe essere regolare. Lo scoprirà solo vivendo e consultando ovviamente la busta paga, così come farà Marco Lombardo anche questa mattina ottimamente in regia per sostenerci. Diciamo così, per essere il vero collaboratore familiare qui di Due di Denari, cara Deborah, perché infatti oggi... Oggi parliamo di questo argomento riprendendo alcune indagini effettuate proprio dal nostro giornale, dal Sole 24 Ore. È un'indagine di settimana scorsa, ma a noi va bene affrontarla anche questa mattina, perché se questo è stato un anno veramente terribile per tante categorie professionali, paradossalmente invece la categoria dei lavoratori domestici ha avuto buone notizie, perché per molte di queste persone appunto si è potuto regolarizzare il posto di lavoro, soprattutto per le badanti o i badanti, e quindi per tutte quelle persone che si prendono cura dei nostri anziani in casa. In realtà, proprio per le problematiche legate alle difficoltà di spostamenti, è stato necessario per molte famiglie regolarizzare appunto questi lavoratori, in modo tale da dare loro una chiaramente giustificazione anche al trasferimento da una città all'altra, se magari molti di questi collaboratori familiari o badanti appunto arrivano da magari località vicino a quelle in cui abitano i nostri genitori anziani. E quindi quindi parleremo anche di questa mattina, perché ci sono dei dati molto interessanti che sono stati diffusi nei giorni scorsi dalle organizzazioni che vigilano su questo mondo, e noi ne riparleremo questa mattina, naturalmente come sempre prendendo a spunto anche le domande e gli interrogativi degli ascoltatori all'800 24 0024. Oppure messaggi, sms e whatsapp al 349 238 6666. Oh, naturalmente essendo lunedì, Deborah, io mi immagino che adesso partiremo con un meteo borsa. Ti voglio dire però che diverse ascoltatrici sconsigliano di accettare l'invito per questioni di dimensioni della vettura che viene proposta. Qualcuna, no, non so, ecco, qualcuna dice ma io accetterei solo Porsche Cayenne o Mercedes. Non so se a questo punto poi faremo un approfondimento. Ho delle pretese più contenute, no, io ho delle pretese molto più modeste. Mi piace già moltissimo il gesto dell'ascoltatore, l'invito a cena, perché devo dirti, Mauro, che di questi tempi, Covid o non Covid, è comunque abbastanza una rarità riceverlo, per cui io mi accontento dell'invito, accetto anche di spostarmi con un'auto, un'utilitaria piccolina. Il problema qua è che non ci si può spostare, e quindi tutto ciò lo dobbiamo rinviare a tempi migliori. Intanto andiamo a sentire come aprono la settimana i mercati finanziari. Meteo Borsa. Meteo Borsologo. Chi è il meteo borsologo, Deborah? Il meteo borsologo della settimana è l'amico Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buongiorno Aspesi e bentrovato. Buongiorno a voi, grazie. Allora Mauro, intanto ti racconto che il mercato stamattina parte bene, non si preoccupa né della Brexit, deal, non deal e tutta la confusione che ancora caratterizza questo processo. Non è neanche preoccupato del nuovo lockdown pesantissimo che la Germania si avvia a far partire, e ci sono i progressi sui vaccini contro il Covid, i farmaci anti-Covid negli Stati Uniti. C'è in arrivo anche il nuovo piano di stimoli fiscali da ben 900 miliardi di dollari, sempre in via di approvazione a Washington da parte del Congresso, e quindi il mercato guarda stamattina il bicchiere mezzo pieno e le borse sono tutte positive. Vuoi partire da qui con Aspesi? E certamente sì, perché vedo che appunto sembra proseguire Aspesi questa specie di strabismo dei mercati, per usare un termine un po' brutale. Direi proprio di sì, e oltretutto se guardassimo anche oggi come le banche stanno reagendo in borsa, stiamo vedendo delle performance particolarmente positive, nonostante le autorità europee abbiano già iniziato a mettere le mani avanti sulla solidità degli istituti finanziari e sul fatto che forse non potranno tornare a un pieno pagamento dei dividendi nel corso del 2021, ma solo chi ha fatto bene le cose durante il 2020 a solidità potrà iniziare a distribuire fino al 20-25% dei profitti. Però pare che in questo momento la borsa non stia considerando neanche questo aspetto, forse più il discorso dell'apertura fiscale negli Stati Uniti, di Brexit e dei vaccini sono i fattori dominanti per un rimbalzo abbastanza corposo dei mercati europei. Deborah, purtroppo siamo sempre funestati da questi disturbi sulla linea, però già appunto Aspesi, Deborah aveva segnalato tutta una serie di eventi che stanno così preparandosi. Eccoci, sei tornata. Stavo per parlare della Fed. No, vai pure avanti, ci mancherebbe tanto. Conosci le dinamiche che riguardano l'attività delle banche centrali? Perché ho saputo che questa settimana si devono riunire, e quindi con varo di politica monetaria espansiva seguirebbe quello che ha annunciato la Banca Centrale Europea settimana scorsa, quindi questo dovrebbe essere ulteriore benzina per far viaggiare a pieno ritmo i listini. Sì, potrebbe essere ulteriore propellente, visto da due ottiche: o un allungamento del programma di acquisto dei titoli, o addirittura un rafforzamento stesso dell'importo acquistato. L'America sta già cercando anche di implementare una politica fiscale con il recente pacchetto fiscale discusso la scorsa settimana. Si cercherà anche di dare energia ai mercati e soprattutto all'economia reale. Quindi è chiaro che questi due tipi di attività fiscale e monetaria debbono andare di pari passo, Oggi come oggi non ci sono pressioni inflattive sui mercati e quindi si può cercare veramente di inserire ancora più benzina nel motore dell'economia americana. È chiaro che è sempre difficile poi andare a monitorare quando ci sarà un'inversione di tendenza per l'inflazione, che come sappiamo è un nemico abbastanza pronunciato dei mercati finanziari, ma non lo vediamo sinceramente per i prossimi trimestri. Forse è un qualcosa che si registrerà più verso fine 2021. Lei ha parlato di benzina per il motore dell'economia americana. A proposito di questo, mi aggancio molto facilmente alle quotazioni del prezzo del petrolio, che stanno tornando a crescere. A Londra il Brent è a $50.50 e siamo su livelli che non si vedevano da marzo, e noi lo enfatizziamo spesso con Mauro questo trend, perché poi avevamo visto invece a fine aprile il clamoroso scivolone del greggio americano, che comunque quota $47, scivolone in senso negativo perché appunto il derivato sul petrolio finì addirittura in un terreno mai esplorato prima, in territorio negativo, come dicevo. Tutto questo per agganciarmi un po' al mondo delle materie prime, che vive un fermento abbastanza interessante e aspesi, a cominciare dal rame, che sta crescendo, e questo è un segnale peraltro paradossalmente positivo in una prospettiva di ripresa economica. Ci spiega per quale motivo e qual è il sottostante di questa dinamica del rame? Sì, sia il rame che il petrolio oggi sono legati dalla prospettiva che le economie possano riprendersi. Il rame è sempre stato una materia prima molto sensibile e anticipatrice del ciclo economico e nello stesso tempo anche della possibile arrivo di pressioni inflattive nei mercati. Quindi il segnale che stanno dando è che comunque ci si aspetta che l'economia torni ad un livello di salute accettabile, nonostante ancora oggi ci siano dei grossi problemi dovuti al contenimento dei contagi, anche negli Stati Uniti, che non dimentichiamo rappresentano un continente intero e quindi hanno ovviamente dei numeri molto importanti in termini di morti purtroppo e di persone ricoverate. Però questi sono dei segnali che dobbiamo considerare, perché essendo le commodities, e ripeto, sia il petrolio che rame, non delle semplici classi di attivo dove riusciamo a scontare quelli che sono i flussi futuri e dire ok, oggi per me vale X perché penso che nei prossimi mesi il profitto che posso ottenere sia Y. In questo caso sono proprio dei segnali anticipatori che sta ritornando molta effervescenza nel mercato, e quindi è probabile che dopo quest'ultimo trimestre di crescita dell'economia forse negativa, a partire dal 2021 potremo vedere un'inversione di tendenza abbastanza importante. Beh, insomma, mi sembrano buone prospettive per l'anno nuovo in qualche modo, Deborah. Assolutamente sì. Allora, per chiudere, Mauro, se sei d'accordo potremmo anche chiedere un po' un commento di Aspesi su Brexit. Ieri sarebbe dovuto essere un weekend decisivo per l'accordo appunto con la Commissione europea, poi Ursula von der Leyen con un nuovo senso di responsabilità, gesto di responsabilità che mi pare di capire ormai stia caratterizzando frequentemente l'operato di questa figura professionale, come dire, politica molto, molto rilevante appunto nel contesto europeo, ha dato la sua disponibilità a Johnson appunto di proseguire, perché il no deal per l'Europa non è al momento contemplato. Che ne pensa Aspesi, che strada stiamo intraprendendo in queste ore? Ma io mi auguro che si arrivi a una situazione di accordo dell'ultimo momento, perché comunque sia nell'interesse del Regno Unito che nell'interesse dell'Europa questo tipo di taglio dei rapporti che provocato da una hard Brexit non aiuterebbe sinceramente nessuno. Il rischio sarebbe che l'Inghilterra iniziasse a utilizzare delle manovre commerciali un po' più spregiudicate, quindi cercare anche di fare concorrenza importante al blocco europeo, e dall'altra parte la stessa Europa ha circa il 25% delle proprie connessioni economiche legate al Regno Unito, quindi non è un tipo di attività che non rende a nessuno, quindi non capisco perché si debba arrivare a una drastica chiusura delle relazioni, quando invece si può cercare sempre con un buon approccio bilanciato di ottenere dei risultati migliori. E questo è quello che ci auguriamo un po' tutti. Allora ringraziamo Alessandro Aspesi, Country Head Italia per Columbia Fenidol Investment. Cara Debora, è il momento adesso del nostro giornale radio del risparmio. Ascolto ogni mattina Due di Denari, aiutano a gestire i miei tesori. La cassuela da porta via del Meazza è splendida. No, poverino, dai, non bisogna deluderlo. Grande donna, grande donna. Debora, qui come vedi gli ascoltatori, le ascoltatrici si sono molto appassionati, appassionate alla tua vicenda, insomma allo spasimante che vuole portarti via non con una torpedo blu ma con una Panda 30. E c'è chi dice accetta l'invito, c'è chi dice non accettare l'invito, insomma estate. Per intanto guarda, puoi leggere l'indagine sulla qualità della vita, non so se ne hai sentito parlare nei giornali radio questa mattina, immagino di sì. In abbondanza, però ci sono tanti aspetti che interessano anche Due di Denari, caro Mauro, e quindi magari sarebbe interessante raccontare ai nostri ascoltatori effettivamente cosa questa indagine ci racconta in riferimento al PIL delle province monitorate e anche il risparmio quest'anno come si è comportato. Noi l'abbiamo detto tante volte, ma diciamo che la qualificazione geografica rilasciata da questa inchiesta è piuttosto interessante. Sì, perché sostanzialmente diminuendo il prodotto interno lordo, cioè la capacità produttiva, poi sostanzialmente sono aumentati i risparmi e sono quelle le province medie del centro e del nord che guadagnano un po' di posizioni se andiamo a guardare solo la parte ricchezza e consumi. Tu sai che l'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita è composta da tantissimi indicatori, quest'anno poi sì, pesati e corretti ulteriormente fino all'ultimo momento utile proprio per verificare l'impatto della pandemia. Allora Bologna, come sapete ormai, ha vinto la classifica, ma vince anche la classifica di tappa sul appunto PIL e risparmi, reddito disponibile pro capite 2019 e indice dei nuovi mutui per l'acquisto di casa nel primo semestre 2020. Quindi Bologna effettivamente ha legittimato il suo primato con questi ottimi piazzamenti. E poi il nord in testa anche per i risparmi delle famiglie, che risultano particolarmente elevati a Bolzano, poi Milano, Piacenza, Cuneo e Sondrio. Questo però, cara Debora, più che un indice di ricchezza potrebbe essere un indice anche di preoccupazione. Questo della sì, qualità della vita. Timore di spendere ed investire, sì. Tutti i particolari naturalmente sul Sole 24 Ore oggi in edicola, con anche, ve lo segnalo, uno speciale, un numero speciale dell'Esperto Risponde dedicato al 110%. Nuovi chiarimenti, non ce n'è mai abbastanza, ne forniamo ancora oggi in edicola. Prego Debora. E allora, a proposito di bonus 110%, vi racconterei anche di una notizia che riguarda ancora la casa, ma riguarda in questo caso il mercato degli affitti, perché la pandemia continua a far sentire i suoi effetti sul mercato immobiliare con varie declinazioni. Uno di questi è il raffreddamento del mercato delle locazioni, che soprattutto nelle città vede scendere i valori dei canoni. La riduzione media del 2020 è calcolata in un 7,5% secondo i dati di questo network, che è Solo Affitti, che è capitato anche noi dei Due di Denari appunto ospitare molto spesso, ma nei grandi centri la discesa è più marcata, con Milano che fa segnare una riduzione addirittura del 16%. I canoni scendono perché l'offerta di case in affitto cresce, supera ampiamente la domanda. Il canone medio scende, secondo l'indagine di Solo Affitti, a circa 570 euro mensili per abitazioni arredate, con un'Italia che naturalmente però a macchia di leopardo. Tutto questo peraltro, Mauro, ci fa anche ricordare che è allo studio, se non ricordo male, un provvedimento che consentirebbe ai proprietari che accettano di praticare uno sconto del canone di affitto ai propri locatari, uno sconto fiscale che dovrebbe essere deliberato a breve appunto dal governo, e forse sarebbe il caso anche che noi ne parlassimo altrettanto a breve a Due di Denari, magari anche venerdì. Ma certamente si tratta, cara Deborah, per essere proprio un po' pedanti, come sai io amo essere, del accorpamento dei quattro decreti legge, cosiddetti decreti ristori. Allora lì nel convertire il tutto in legge, ed è una cosa che deve avvenire però abbastanza rapidamente, diciamo nel giro di questa settimana e primi giorni della prossima, sono stati introdotti anche questi sconti, proprio questo sconto di cui parli tu. Naturalmente non sono ancora vigenti, devono essere confermati dal Parlamento, ma appena avremo abbastanza certezze, e venerdì potrebbe darsi, ci dedicheremo una bella puntata. Volevi dirmi qualcos'altro? Un'ultima notizia riguarda una segnalazione che vogliamo fare, che riguarda un evento digitale che Borsa Italiana e Assogestioni, l'Associazione delle Società di Risparmio Italiane, appunto, è un evento digitale che queste due istituzioni organizzano per domani e dopodomani. Si tratta dell'Alternative Investment Fund Days, i due giorni dedicati ai fondi di investimento alternativi, e quindi si riuniranno professionisti del settore, rappresentanti di istituzioni, di autorità di regolamentazione per parlare di questo argomento. Ci sono delle novità molto interessanti che riguardano il panorama del risparmio gestito. Si va sempre di più verso la costituzione di questi fondi di investimento che vogliono puntare sull'economia reale, e quindi sarà probabilmente la grande novità di questi prossimi mesi, e quindi se ne comincia a parlare sempre più diffusamente. È possibile consultare il programma delle due giornate ed iscriversi sul sito eventi.salonederisparmio.com/alternative-fundays/. No, il punto l'ho messo io, ma no, sì, si finale, trova molto no. Rapidamente il punto finale nel caso di comunque dirlo. Col salone del risparmio, con il salone del risparmio, esatto. Trovate poi al sito del salone del risparmio, trovate appunto le indicazioni per l'Alternative Foundays, per gli Alternative Foundays. Allora, cara Deborah, ti segnalo che il Panda Club di Casal Borsetti ci segnala, dice così: venerabile signora Deborah, la Panda 30 non è una semplice vettura, è la storia. Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Le tasse vanno pagate tutte e non sono discrezionali. Il prelievo forzoso è una cosa diversa, eh? Ma ecco. Le tasse ovviamente vanno pagate nel modo più assoluto, però io mi riferivo al fatto che ci potrebbero imporre un qualcosa in termini di pagamento che non vorremmo essere, diciamo, non vorremmo l'imposizione, tipo il canone RAI che ci arriva direttamente in bolletta, lo devo pagare per forza. Anche se io la RAI non la guardo, o comunque potrei scegliere di non guardarla, va bene, però la pago lo stesso. E volevamo parlare delle accise anche sui carburanti. E adesso non facciamo in tempo a parlare delle accise sui carburanti, del canone RAI si potrebbe parlare a lungo. Cara Deborah, io ti dico solo che ci ha scritto Seba e ci ha detto: ci sono riuscito a caricare la mia carta ricaricabile sul cashback, e quindi una buona notizia per il cashback. Suoniamo le campane. Ma per adesso direi ascoltiamo le borse. È una bella zuppa questi due qua. Due di denari. Sola posta, cassola a mezzogiorno con Panda 40 a gas metano. Se Panda 30 puoi andare, perché i sedili ribaltabili sono nella 30L. Vabbè, Deborah, abbiamo scatenato. Non riusciamo più a controllare questa cosa, diciamo la verità. Stiamo sul pezzo, stiamo sul tema. Il tema, come abbiamo annunciato, sono Colf e badanti, anche perché il mese di dicembre è un mese di adempimenti, è il mese delle tredicesime da parte dei datori di lavoro, il mese del TFR, insomma c'è tutta una serie di questioni da affrontare, e noi abbiamo scomodato due esperti di valore mondiale. Contravvengo all'ordine alfabetico per cognome per ragioni di galanteria, perché è con noi la collega del Sole 24 Ore, Valentina Melis, che ha firmato proprio lunedì scorso una bellissima pagina sull'andamento delle regolarizzazioni delle presenze delle colf e delle badanti, o dei badanti, qui in Italia. Valentina, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio 24. E poi abbiamo un altro esperto, un debutto, se non dico una stupidaggine qui a Due di Denari, Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Dottor Cavalleri, buongiorno, scusi la gaffe. Buongiorno a tutti, assolutamente, volevo precisare che anch'io ho la panda, quindi era solo per stare nel merito del ragionamento precedente. Saluto Valentina Melis, che ascolto spesso, persona che stimo profondamente, complimenti a voi per la bellissima trasmissione. Pronto per affrontare l'argomento, ma lascio ovviamente la parola in assoluto prima a Valentina Melis. Allora Valentina, spiegaci un po' che cosa abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore di lunedì, che il lockdown, la pandemia, insomma quasi quasi c'è stata una spinta alla regolarizzazione, probabilmente perché c'era anche una necessità di avere i vari, non erano ancora ristori, non li chiamavamo così, però c'erano delle provvidenze in qualche modo, degli aiuti. Certo, allora innanzitutto grazie dei complimenti, siete stati tutti decisamente esagerati, e soprattutto Mauro quando introduce gli esperti chiamandoli come esperti di fama mondiale mi sembra eccessivo. Comunque, cosa abbiamo raccontato sul Sole? Abbiamo raccontato che il numero di corse badanti potrebbe superare il 1 milione di regolari rispetto agli 848.000 censiti dall'INPS per il 19, a coloro che sono emersi con la sanatoria, che sono oltre 176.000, la sanatoria introdotta appunto dal decreto 34/2020, il decreto rilancio, ma poi c'è stato il lockdown, come ricordavi tu, cioè durante la prima ondata della pandemia il saldo tra assunzioni e cessazioni è stato positivo per oltre 18.000 rapporti di lavoro. Probabilmente non si tratta di nuovi rapporti, ma si tratta dell'emersione di rapporti che erano già in corso nelle case, nelle famiglie degli italiani e che sono stati appunto regolarizzati perché durante il lockdown era necessario muoversi proprio per raggiungere gli assistiti, no? E poi è stata introdotta anche l'indennità colf e badanti, cioè badanti no perché le conviventi sono state escluse, comunque per i mesi di aprile e maggio l'indennità da 500 euro per ciascuno di questi due mesi, che in realtà però spettava chi era già regolare al 23 di febbraio, quindi in questo senso il bonus colf cosiddetto non credo abbia spinto delle regolarizzazioni, se non nell'attesa che poi ci fossero altri aiuti per il settore. Beh, sicuramente insomma il fatto che si fosse così, sia stato previsto in qualche modo un aiuto per una categoria che solitamente non veniva compresa, non veniva ricompresa in questo tipo di provvidenze, può avere spinto qualcuno. E poi mi sembrava quasi anche un po' controintuitivo, Valentina, il fatto che il lockdown, che probabilmente ha ridotto la necessità di avere una persona che aiuta in casa, invece ha portato a un aumento delle presenze, quindi comprendo bene i dati. Allora, noi abbiamo diverse fonti, quello che abbiamo analizzato lunedì era il rapporto dell'associazione datoriale Domina, che rileva un lieve incremento delle badanti proprio, di solito il rapporto è a favore delle colf, di solito il 52% dei lavoratori domestici sono colf, il 48% badanti, questo rapporto potrebbe invertirsi anche in virtù della preferenza accordata all'assistenza domiciliare rispetto alla cura dell'anziano, per esempio, della persona non autosufficiente in casa di riposo. Quindi è probabile che, infatti noi abbiamo messo in luce come è stato l'andamento delle assunzioni di badanti o delle emersioni di badanti, su 177.000 assunzioni che sono state fatte nel primo semestre di quest'anno, oltre 95.000 riguardano proprio badanti. Questo perché probabilmente c'è una maggiore sensibilità su questo fronte e quindi le famiglie probabilmente hanno preferito insomma avere una persona in casa o regolarizzarla proprio a causa dell'epidemia e per una maggiore sicurezza. Allora, Debora, vuoi sapere? Volevo interpellare. Certo. Sì, volevo sapere. No, dimmi cosa volevi sapere. Volevo sapere che macchina possiede Cavalleri oltre alla panda. Ce lo racconterà se vorrà, naturalmente molto simpatico dottor Cavalleri. Volevo chiedere in realtà al mondo dei consulenti del lavoro, quali sono le domande più gettonate che hanno rivolto loro le famiglie italiane che intendono naturalmente regolarizzare un rapporto di lavoro con un lavoratore domestico, naturalmente con un badante. Continuiamo ad utilizzare appunto questo termine per ovviamente renderlo più familiare anche a tutti i nostri ascoltatori, perché sappiamo che gli interlocutori di riferimento sono le associazioni di lavoro datoriale di questa categoria, quindi Assindatcolf e le altre, ma immaginiamo che anche i consulenti del lavoro vengano interpellati, no, per cercare di chiarimenti su questo versante. In questo anno così complesso, dottor Cavalleri, quali sono le questioni più diffuse che avete dovuto gestire con le famiglie italiane? Allora, innanzitutto, cortissima domanda, e seguo quello che ha detto perfettamente la dottoressa Melis. 176.000 sanatorie, un numero importantissimo. Immaginate quante telefonate ci hanno raggiunto. Le domande principali era la responsabilità. Che responsabilità ho in questa procedura? Ed è una domanda particolare, no? Perché ci troviamo di fronte spesso a dei soggetti che utilizzavano già delle badanti o delle cose non in regola. Primo aspetto. Secondo aspetto importante era il costo. In un intervento che ho ascoltato gli scorsi giorni con grande eccezione della collega Melis, era il costo. Il costo è aumentato per la contrattazione collettiva, è cambiata dal 1° di ottobre, c'è stato un rinnovo contrattuale, ma soprattutto questi importi che sono stati dati come una tantum, quindi molte famiglie, già lo precisavate prima, in una situazione già da difficoltà dovuta al Covid, si sono trovate anche in questa situazione di sanatoria ad avere un costo maggiore, no? Quindi tutto questo fa parte di un insieme di domande. Le ne faccio un'altra, tanto per essere ancora più chiaro. Solitamente le persone in nero hanno una retribuzione più alta delle persone in regola. Certo. E lei spesso capita, quanto dai alla tua cosa? 10-12 euro. Poi andiamo a vedere invece il contratto collettivo e magari 18 euro, 7 euro. Quindi ci troviamo in situazioni di grosso disagio anche nell'ambito della regolarizzazione. Quindi mi ha fatto molto piacere che abbia detto anche i consulenti sono molto inseriti in questa situazione di sanatoria e molto inseriti nella gestione. Si parlava prima di 1 milione quasi di rapporti di lavoro, ma in realtà noi sappiamo che abbiamo un 60% di lavoro sommerso, quindi sono quasi 2 milioni i rapporti di lavoro in tutto di lavoratori domestici che, attenzione, dal 1° di ottobre vengono chiamati assistenti familiari, perché esatto, questo è stato detto dal rinnovo contrattuale. Ecco. La fermo Cavalleri, perché invece non ha cambiato nome il nostro momento per la informazione sulla viabilità e continua a chiamarsi il traffico. C'è troppa confusione in giro. Di denari. Ma la Panda 40, boh, io non l'ho mai sentita. La 30, la 45, sì, mi sono perso qualcosa. Vabbè, niente, Deborah, non riusciamo a uscire. Chi l'ha detto la 40? Non io. Penso un ascoltatore, oppure mi sono sbagliato io, non lo so. No, mi fanno ampi cenni dalla regia, rassicuranti. Ti posso anche dire che qualcuno consiglia una 500 vecchio modello, di quelle che tu non hai fatto in tempo a vedere perché manco eri nata, cara Deborah. Ma figurati, guarda, io avevo quella nera di zio Aldo con la quale scorrazzavo in giro per Castelfidardo con grande... con grande simpatia. Ecco, però ce ne mandano una foto di un modello col tettuccio apribile. Dice così non hai il problema dell'altezza, perché magari poi c'era il problema che non ci stavi. Qualcuno fa delle battute, la Panda e la pandemia. Va bene, niente. Ormai abbiamo aperto il vaso di Pandora. Verrebbe da dire, torniamo con questa freddura alla questione dei datori di lavoro e delle colf, perché sono cose serie. Questo mese, il dicembre, è il mese della 13ª. Allora, dottor Cavalleri, Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, come si fa a calcolare la 13ª dovuta al collaboratore domestico, alla collaboratrice domestica? Allora, innanzitutto ci aiuta il contratto collettivo. E sembra semplice dire contratto collettivo, voi sapete con il rapporto di lavoro tra datore, lavoratore subordinato, perché parliamo di lavoratore subordinato, si applica il contratto collettivo nazionale, poi c'è anche l'aziendale, ma lasciamoli perdere. sembra semplice, ma c'è avuto una sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'articolo 2068 del Codice Civile, che prevedeva che il rapporto fra corse e badanti non poteva essere regolamentato da un contratto collettivo nazionale. Quindi vedete che tutto semplice non è, anche nel diritto del lavoro. In questo caso abbiamo l'articolo 39, che dice che in occasione del Natale o comunque entro il mese di dicembre spetta al lavoratore la mensilità aggiuntiva. Questa mensilità aggiuntiva, che attenzione, è una retribuzione indiretta. Noi abbiamo tre diverse tipologie di retribuzione: diretta, quella che percepisce tutti i mesi il lavoratore subordinato; indiretta, che è la tredicesima, le ferie permesse, eccetera; e il TFR, che si chiama retribuzione di fermità. In questo caso quindi abbiamo una retribuzione indiretta, mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, quindi alla retribuzione che percepisce il lavoratore mensilmente. Attenzione però, in caso di lavoratore convivente, perché voi mi insegnate che si parla di lavoratori conviventi e non conviventi negli assistenti familiari, in questo caso bisogna calcolare anche l'indennità di vitto e alloggio, così come ovviamente troviamo nella nota a verbale apposta a calcio in questo rinnovo di contratto. Quindi è chiaro che è una mensilità in più, diciamolo in maniera semplice. Naturalmente tutti coloro che hanno instaurato un rapporto di lavoro durante l'anno non maturano ovviamente le 12 mensilità, ma maturano solo in rapporto a quando sono stati assunti. E potremmo anche dire che, come consuetudine, come molti contratti collettivi citano, nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto a metà, per esempio, di un mese, la maturazione di quel mese della tredicesima nasce se è prima o dopo la metà del mese, il 15 del mese. Attenzione, perché la tredicesima mensilità matura anche durante le assenze di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo ovviamente di mantenimento del posto di lavoro. Ecco, quindi qual è l'attenzione che dobbiamo dare a chi ci ascolta? È il concetto di serietà nella compilazione del prospetto paga. Perché lo chiamo prospetto paga? Perché in realtà noi consulenti del lavoro, quando parliamo di cedolino paga, parliamo di LUL, libro unico del lavoro dal 2008 in poi. Nel caso invece del datore di lavoro, dell'assistente familiare, non ha l'obbligo della vidimazione del libro unico del lavoro. Quindi può fare un cedolino, che lo può elaborare tranquillamente il consulente del lavoro, oppure un prospetto paga, anche quelli già predefiniti, acquistati nei negozi specializzati, in cui il datore di lavoro compila le varie voci. Attenzione, mi permetto di dire una specifica: nel mondo delle corse dei badanti, quindi assistenti familiari, abbiamo un numero elevatissimo di vertenze, e la maggior parte delle vertenze sono dovute a differenze di calcolo sui cedolini paga. Questo per dire, stiamo molto attenti nella elaborazione del prospetto paga, perché è una delle cause principali di divergenza di lavoro. Potremmo farcelo verificare da un professionista, dice dottor Colleri. Quello sicuramente con grande, cioè non dico mese per mese, ma magari la prima, la seconda mensilità che si compila, magari uno si fa aiutare. Bravo, da un professionista. Un'iniziazione, proprio un accompagnamento alla corretta comprensione, anche perché, permettetemi, quando si parla di datore di lavoro, voi mi insegnate che è un imprenditore, un professionista che intraprende una professione, un'attività imprenditoriale, la organizza e assume dei dipendenti. Qua ci troviamo principalmente datori di lavoro, persone fisiche, spesso persone anziane, che per emergenza, pensiamo al Covid, devono di colpo assumere una persona. Quindi altro errore profondo: il periodo di prova. Il periodo di prova l'abbiamo nel contratto collettivo, quindi assumiamo le persone e durante il periodo di prova decidiamo se i soggetti sono idonei o non idonei allo svolgimento dell'attività. Non facciamo il periodo di prova prima di assumere la persona, perché questo qua è lavoro nero e quindi bisogna stare molto attenti. Scusate queste piccole cose, ma consigli che spero siano utili, per, anche se ovvi, per gli ascoltatori. Sicuramente. Debora. Certo. Un'ultima domanda a Valentina Medis. Allora, noi siamo partiti da questo presupposto di come il Covid-19 abbia favorito l'emersione di una parte di lavoro nero di colf e badanti, di assistenti familiari, come giustamente adesso vanno chiamati, nelle case italiane, spingendo il totale di regolari oltre quota 1 milione. Un picco di nuove assunzioni che Valentina prima ci raccontavi è stato registrato nel mese di marzo, tra marzo ed aprile. Mi stavo chiedendo come è poi proseguito l'anno e se, visto che il Covid è ancora tra di noi e molte situazioni di difficoltà ci accompagneranno ancora a lungo, mi chiedo se le associazioni alle quali ti sei rivolta per farti dare questi dati hanno la sensazione che questo trend potrà continuare, il che mi dice che anche comunque un buon tema, un buon trend, una situazione anche positiva da questo punto di vista, queste regolarizzazioni. Valentina. Sicuramente è un dato positivo. I primi numeri che abbiamo sulla seconda metà dell'anno, tra l'altro domani esce proprio il rapporto Sindatcol, quindi altri dati sulla materia, dalle anticipazioni di questo nuovo rapporto emerge che ci sono state nuove assunzioni nei mesi di settembre e ottobre, con rispettivamente 15.000 e 34.000 nuovi posti di lavoro, ma ci sono state anche delle cessazioni. Allora, bisogna purtroppo dire che molte cessazioni sono state dovute al fatto che la persona assistita è venuta a mancare, e quindi ad esempio a maggio i licenziamenti sono stati oltre 34.000. Quindi ecco, è una dinamica che dovremo vedere un po' a fine anno, mettendo un po' insieme tutti i dati. Sicuramente questa tendenza all'emersione andrebbe premiata con qualche incentivo, perché nel 2012, quando c'è stata l'altra sanatoria che ha portato oltre 1 milione il numero dei lavoratori domestici irregolari, e come ricordava giustamente il dottor Cavalleri, ci sono 1 milione di lavoratori stimati ancora in nero. Nel 2012, dicevo, questo numero era aumentato, ma poi è progressivamente diminuito negli anni successivi. Vuol dire che questi lavoratori sono ritornati in un'area o grigia o nera, comunque di irregolarità dal punto di vista lavorativo. Allora, dicevo incentivi, perché le associazioni datoriali da tempo, e anche nel contesto del Family Act, che già prevede in un articolo questa possibilità, chiedono che siano concessi alle famiglie o degli sgravi, sgravi. Ti interrompo, quindi, Valentina, perché siamo in chiusura, anzi siamo già oltre la chiusura. Ringraziamo Valentina Melis, ringraziamo Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Due di Denari torna domani.